ha imbarcato i giurati di paesi che naturalmente non possono avere la stessa frequentazione, non diciamo competenza, la competenza è una cosa che ne deriva, è un derivato, diciamo la stessa frequentazione con il grande calcio che abbiamo per esempio in Europa, sì, o in Sud America. E così facendo, chi è il giocatore i cui highlight vengono costantemente mostrati dalla CNN, beh, che è la televisione globale per eccellenza, e Leo Messi naturalmente. E allora gli diamo i prossimi 10. E allora se non cambi, secondo me cambieranno qualcosa, perché muore di noia. Ma un chiaro premio, il Nobel ogni anno allo stesso scrittore o l'Oscar allo stesso attore, dopo un po' di tempo nessuno va più a coprire questo premio perché non se lo fila più nessuno. No, poi c'è, faranno qualcosa alla FIFA sicuramente. Poi sai, c'è il vecchio discorso, che è un'altra cosa che mi fa abbastanza imbizzarrire: Messi, Maradona. Adesso Messi ha staccato anche la concorrenza di gente come Van Basten, Platini, eccetera eccetera, si è portato vicino a Maradona. Poi quando lo vedrò portare l'Argentina sulle spalle al titolo mondiale, allora ne parliamo. Ebbene, insomma, il bello del calcio sono quei tornei lì, no? Sono comunque le partite. D'altra parte, noi siamo stati inizialmente educati allo sport con quella meravigliosa massima di De Coubertin: l'importante è partecipare, no? Lo spirito olimpico. Ecco, nel calcio, non soltanto nel calcio, però noi che frequentiamo il calcio lo sappiamo meglio di chiunque altro, siamo ormai al di là, e nel dilettantismo l'importante è partecipare. Certo. Nel professionismo vincere non è un lato marginale del gioco, no, è il lato essenziale del gioco vincere. E quindi il fatto che Messi, cioè Leo quest'anno ha fatto delle cose pazzesche, basterebbe ricordare il numero dei 91 gol. Però nelle due partite chiave della stagione, che secondo me sono state le semifinali con il Chelsea di Champions League, lui non è riuscito a battere il bunker del Chelsea. Certo, no, ma anche perché scrive giustamente De Ponti anche sul Corriere della Sera: Rossi e Cannavaro con questo criterio il pallone d'oro non l'avrebbero mai vinto. La Spagna, che si è pigliata tutto nelle ultime edizioni di europei e mondiali, non ha portato a casa nessun titolo individuale. Esatto, non ha portato a casa nessun titolo individuale, e questo mi sembra veramente una follia, no? Un'assurdità. Difatti, insomma, il mio voto per Iniesta dice chiaramente che la penso come te. Grazie Paolo. A voi, buona giornata. Un abbraccio, grazie a Paolo Condò. 800 24 00 24, numero verde. Voi siete d'accordo o no con questo ennesimo pallone d'oro sopra il gigantesco caminetto di Lionel Messi? Mi segnala Franco Piantanida che lo vinse anche Summer nel 96 il pallone d'oro. Su questo possiamo anche tralasciare, però torno a ripetere la questione del premio individuale in un gioco di squadra è già qualcosa che mi appassiona poco. Se non esce dai confini della Spagna, ci sta, perché la Spagna si è pigliata tutto. Se però questo premio individuale non esce neanche dalla villa di Lionel Messi, beh, allora effettivamente c'è qualcosa da cambiare, oppure finirà per non interessare più a nessuno questa vicenda. 800 24 00 24, vi aspetto dopo il traffico. Messi è più forte oggi di prima, non si sa dove finisce questa storia di Messi, sta battendo tutte le record che c'è. Beh, devo dire che al di là del pallone d'oro oggi gli argomenti di discussione ce ne sono, perché l'ex premier e attuale proprietario del Milan, che adesso sentiamo e vediamo ovunque, avete sentito anche prima nel giornale radio, da quando sono tornati in TV, sono tornato a fare proseliti, parla sì di politica, parla di alleanze con la Lega, ma parla ogni volta anche di quello che è stato un suo grande cavallo di Troia, cioè il calcio e in particolare il Milan. C'è quell'allenatore livornese, magari anche un po' comunista, non lo so, che proprio non gli va giù. Le è mai venuta la tentazione di cambiare Allegri, e si vede ancora Allegri nel futuro del Milan, anche per l'anno prossimo? Il presidente del Milan deve dire sempre la verità. Passiamo alla prossima domanda. Ma ha parlato non solo Francesco da Parma, stia lì, 800 24 00 24 il numero verde, ha parlato non solo del suo attuale allenatore, ma anche di un giocatore che molti vorrebbero vedere tornare in Italia, che molti tifosi del Milan vorrebbero vedere con la maglia rossonera ora che Pato è partito. E tra l'altro Berlusconi dice sì, è andato via, però tra un anno e mezzo torna. Ma come si fa a saperlo? L'ha venduto al Corinthians, come fa a sapere che tra un anno e mezzo torna? Nel frattempo molti parlano di Balotelli, ma lui no. In ogni squadra di calcio, nel Milan assolutamente, è molto importante l'aspetto umano, certo, della persona. E se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, così si usa dire, può infettare anche tutti gli altri. Quindi, siccome io ho avuto modo per vicende della vita di poter dare un giudizio sull'uomo Balotelli, è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Quindi Balotelli me la marcia, magari sarà contento Antonio Balzarotti, sindaco leghista di Corbetta, che poi vi farò anche sentire, purtroppo. Intanto ascoltatori, 800 24 0024, tutti convocati, questa è la vostra voce. Francesco. Sì, pronto, sono Francesco Caltabiano da Fidenza. Sì. Volevo parlare del mio presidente, io non sono tifoso del Napoli, di più, perché sì, noi non siamo tifosi, siamo tifosissimi. Sì. Io volevo dire al mio presidente che lo ringrazierò sempre, sì, a dispetto di tanti che lo criticano, cacci i soldi, perché noi siamo così. Mm. Perché io mi ricordo da dove ha preso il Napoli il signor De Laurentiis, dalla Serie C, e ci ha portato fino qui. E non c'erano le magliette per allenarsi, non c'erano i palloni, non c'era sì, nulla quel giorno. Mm? E ci ha portato adesso avere delle emozioni che noi le avevamo solo ai tempi di Maradona, e possiamo, sì, essere falliti. Ma questo, allora, peana per De Laurentiis, Francesco, vale anche in caso di cessione di Cavani? Sì, sì, ma è giusto, perché Cavani lui l'ha preso che non era nessuno, adesso è diventato quello che è diventato. Se gli danno i soldi che gli devono dare, ne prenderà degli altri, perché a me De Laurentiis mi dà molta fiducia. Certo, perdi uno come Cavani, fare una squadra forte senza uno come lui non è facile, ma io sono convinto che una bomba il nostro presidente ce la regala sicuro. Va bene, allora gireremo l'audio di questa telefonata alla sede del Napoli, così De Laurentiis se l'ascolta ogni volta che si sente un po' giù. Grazie Francesco. Piero Monza. Ciao Carlo. Ciao. Buon anno, sono ancora in tempo. Buon anno, naturalmente. Volevo fare una domanda, una considerazione e due domande. Sì. La prima considerazione è: il pallone d'oro ha perso ogni significato dal momento in cui non è stato assegnato al più grande libero del mondo, che è Franco Baresi. Da allora quella competizione, chiamiamola così, non ha Piero, più poi ognuno potrebbe portar lì un nome, no? Potrebbe buttarne, sì, un nome a seconda della bandiera che tiene a casa. Franco Baresi, certamente, ma ce ne sono molti di giocatori nessuno, che Franco Baresi è indiscutibile. Sì. La domanda è: cosa pensi di Stramaccioni, che a me piaceva molto come allenatore, molto giovane, rampante, che però adesso sta prendendo un po' il vizietto un po' di tutti i perdenti, insomma, quando insomma via la Volpe e l'uva, mi sembra. E l'altra su Balotelli è veramente un peccato. Mancini penso che sia stato il suo padre putativo, e vederlo trattato così mi ha fatto male, molto male. Grazie. A te Piero, cosa ne penso di Stramaccioni? Innanzitutto mi è molto simpatico, è un allenatore, ma questo non conta niente naturalmente nel calcio, è un allenatore giovane che tutto sommato si è inventato qualcosa di diverso in una squadra in ricostruzione, e in ricostruzione senza tanti soldi, come sottolinea sempre Moratti, come dimostrano anche le questioni di mercato, visto che il nome dell'attaccante che è arrivato, cioè il 35enne Rocchi, è un allenatore che, è vero, sta un po' prendendo il vizio di cercare molte giustificazioni. Io dico, se prendi tre fischi a Udine non ti puoi aggrappare ad un rigore che peraltro l'azione l'avete vista tutti, era fuori gioco, era un rigore che secondo me non c'era, eccetera eccetera eccetera. Alla fine ne hai presi tre, va bene che il calcio è un gioco fatto di episodi, però mi è sembrato il solito paravento, la solita scusa di chi perde e non sa dove aggrapparsi bene. Federico da Alessandria, buongiorno. A Balotelli, mi dimenticavo di Balotelli, vabbè, quella scena Balotelli-Mancini, insomma, ne abbiamo viste fin troppe. Io sono dell'idea che Balotelli avrebbe bisogno di giocare in pianta stabile nel Manchester City, non è possibile. È chiaro che ha una testa ricamata, è chiaro anche che io credo che un giocatore che diventa titolare e assume certe responsabilità non può che maturare. Questo vai e vieni tra tribuna, panchina, eccetera eccetera, non fa altro che esasperare gli animi di Mancini, di Balotelli, di Raiola, eccetera. Non credo possa andare avanti così. D'altra parte, pagare lo stipendio di Balotelli è molto difficile per tutti, al di là delle mele o non mele di Berlusconi. Federico, Alessandria, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Carlo. Senta, io volevo intervenire sulla Juve, poi la ricezione non me l'ha permesso. Oggi andiamo sull'attualità del pallone d'oro. Secondo me questa pallone buffonata d'oro, che è diventato il pallone d'oro. Sì, ha perso interesse non da quando non l'ha dato a Scirea o a Baresi o a chi vuole lei, ma da quando il pallone d'oro ha preso importanza. Cioè, il pallone d'oro una volta era una cosa che occupava lo spazio di un trafiletto o mezzo articolo di un giornale, e noi appassionati di calcio ci occupavamo più dei risultati del giocatore buono, del Scirea, del Baresi, piuttosto che del Summer. No, ma sì, ma certo, ma il discorso è che mi diventa incomprensibile, assegnare questo tipo di premio, che appunto è un premio individuale in un gioco di squadra, eccetera, eccetera, ad un giocatore che l'anno scorso praticamente non ha vinto nulla. Secondo me il criterio, l'assioma che non può essere derogato, è che comunque questo premio, interessi o non interessi, sia o meno gonfio dei soldi degli sponsor, tutto quello che vuole, però trovo assurdo assegnare questo tipo di premio individuale ad un giocatore che non vince nulla, quando c'è la Spagna che ha vinto due europei, ha vinto il mondiale, ha dei giocatori mostruosi, onestamente. Prima ma si diceva di Iniesta, possiamo dire di Xabi, possiamo dire di Casillas, per fare anche il nome di un portieri che non lo vincono mai il pallone d'oro. È assurdo che venga derogata questa regola, se no è davvero una pagliacciata, no? Non solo, secondo me un altro aspetto del pallone d'oro che ormai è diventato lo specchio della nostra società, cioè dove si favorisce l'effimero, la concretezza. È lo stesso motivo per cui è pieno di suoi colleghi che quando intervistano gli allenatori gli chiedono: arriva Balotelli, ha bisticciato con quello là, invece che andare a vedere la reale concretezza della partita. Purtroppo sì, è così. Ma fare del pallone d'oro lo specchio della nostra società mi sembra un po' eccessivo. Io in quello specchio non mi ci rivedo, mi sembra semplicemente un affare di quattrini, mi sembra semplicemente un affare di business, un affare che già interessava poco prima, adesso finirà per non interessare più del tutto. Prima di Vincenzo da Ferrara voglio sentire anche la risposta di Allegri oggi in conferenza stampa, domani sfida la Juventus in Coppa Italia. Allora, non Berlusconi ha detto che vai, non rimani più, eh? Allegri cosa risponde? Il presidente ha conoscenza delle vicende dello spogliatoio e quindi credo che non abbia per me senso, ed è giusto che non risponda a quello che all'esternazione del presidente, che è giusto che le faccia. Ah, è giusto che le faccia, non rispondo, per carità. Vincenzo Ferrara. Pronto? Pronto, ciao Vincenzo. Ciao. Senti, io volevo fare una riflessione sull'Inter. Dopo la vittoria di Torino è stato un dramma, è stato un disastro. Avrei preferito perdere con la, dalla Juventus e poi vincere le altre partite. Riguardo il pallone d'oro, mi sembra che Messi sia in assoluto il più forte. Dopo sono diversi punti di vista. Ascolto la risposta per radio, saluti. No, ma che sia il più forte è indubbio, però siamo sempre lì. Diamogli addirittura i prossimi 10, perché a 25 anni per altri 7-8 sarà più forte giocatore del mondo. E diamo pure il pallone d'oro a Messi tutti gli anni, se così vi piace. L'Inter dopo la Juventus ha avuto un crollo verticale, questo lo sappiamo tutti, lo dice la classifica, lo dice anche il gioco, lo dicono i risultati, lo dicono molte cose. Probabilmente lì ha raggiunto il top di questa prima parte di stagione, poi sono emersi problemi, basta andare a vedere il numero dei gol di Milito nelle ultime partite per farsi una ragione di quali possano essere questi problemi. Raffaele da Como, Balotelli come la Gioconda al Louvre. Allora, Balotelli la Gioconda o una mela marcia? Decidiamoci. 800 24 00 24, numero verde. Prima di tornare al calcio farei una digressione cestistica, anche per darvi qualche notizia della notte. Molti seguono il basket NBA. Ieri per il nostro campionato Siena ha battuto Montegranaro e si è rimessa in corsa. Nella notte ci sono state grandi partite NBA, ad esempio Boston che sbanca il Madison Square Garden 102-96 con una sfida di nervi bellissima, pazzesca, tra Garnett e Carmelo Anthony, con Garnett che ha fatto di tutto per provocare, per entrare sotto la pelle di Carmelo Anthony, e alla fine ci è riuscito. Anthony ne ha fatti 20 con 6 su 25 al tiro e Garnett si è portato a casa la partita. Belinelli torna in doppia cifra nei Chicago Bulls. Altri risultati: Portland Orlando 125-119, Sacramento Memphis 81-113, Utah che batte Dallas 194, Chicago appunto con Belinelli che batte Cleveland 118-92, New Orleans che batte a sorpresa San Antonio nonostante i 20 di Ginobili 95-88, e Washington, grande sorpresa, che supera Oklahoma 101-99, forse il risultato più sorprendente della notte. Però c'è tempo per eleggere, per votare ancora i nostri allo Stargame. Allora, Gioconda o mela marcia, Balotelli? Sarà contento magari il sindaco di Corbetta, Antonio Balzarotti, che insomma, che Berlusconi ha detto che Balotelli non lo prende. Affondiamo prima di parlare con Carlo dunque le mani in questa ben nota spazzatura, perché sapete che per la vicenda dell'altro giorno Riccardo Grittini della Lega Nord, assessore allo sport, è indagato, di Corbetta, è indagato per cori razzisti in occasione di Pro Patria Milan. E allora Sky ha chiamato il sindaco di Corbetta, Balzarotti. Ho parlato ieri con Grittini, il quale a suo giudizio dice di non ritenere di aver commesso dei reati, parte qualche buo e qualche urlo che non era rivolto a qualcuno in particolare, ma a tutti, credo certamente a quello che mi ha detto lui. E questa la parte ufficiale, però poi qualcuno si è dimenticato di appendere il telefono e di tirare giù i cursori, e allora è proseguita così, fuori onda. Voglio dire che invece se uno fa buo a un neger è reato. Ma come fai a dire che io lo faccio un nero? Cosa dite voi? 800 24 00 24, i nostri amministratori, che meraviglia. Carlo Milano, buongiorno. Buongiorno. A parte il fatto che sei rinato, io voglio rinascere Kevin Garnett. L'ho vista. Più o meno anch'io. Giocatore è il mio idolo. Anche il mio per moltissimi punti. Però non parliamo di basket perché io sono in lutto, quindi non parliamo di basket. Ragione. Milano mi sta facendo, vabbè, mi sta lutto facendo tanto, dannare. Lutto è troppo. Senta, gente, io ho grande stima di lei. Quindi grazie. Le chiedo freddamente questo ragionamento. Io sono tifoso milanista. Sì. Prima ha parlato di stramaccioni e io non sono tanto d'accordo, ma non perché sono milanista. Io vorrei fare un parallelo stramaccioni-Allegri. Allora, stramaccioni lo trovo sopravvalutato, molto polemico ultimamente e anche abbastanza plateale, perché devo dirle la verità, io dopo il derby, se uno, vuol dire, mi è venuto in mente un Ancelotti o anche altri allenatori anche dell'Inter, dopo un derby vinto in quel modo abbastanza fortunoso, non mi metto a fare quella scena sotto la curva. L'ultimo allenatore del Milan che fece una cosa del genere, no, non so, no, però non so se lo ricorda, l'ultimo del Milan che fece questa cosa era Fatih Terim, se lo ricorda? Sì. Sotto la curva, no? Sì. Ecco, sì. Allegri invece... Non sì, però tutti Allegri, sono uguali, nel, no, anche certo, nelle, però, nelle reazioni, ma per fortuna, per fortuna. Perfetto, non tutti però sono però invece uguali. Io prendo Allegri e le dico, sottovalutato, raramente polemico con gli arbitri e non plateale. Domanda, perché i media, secondo me, sono molto protettivi con Stramaccioni e molto cattivi con Allegri? Glielo chiedo freddamente, mi dia lei un'analisi. Io freddamente le posso rispondere che ad Allegri è stata affidata una squadra da scudetto il primo anno, ha vinto lo scudetto, aveva una squadra da scudetto anche il secondo anno, non ha vinto lo scudetto e quest'anno ha una squadra che vale più o meno l'Inter, quindi non moltissimo e non sta facendo grandi risultati. In più è abbastanza indigesto, ma come sentiamo ogni giorno alla dirigenza. Secondo me Allegri è un bravissimo allenatore che però in questa stagione con una squadra molto differente, molto meno qualitativa, mi ha deluso nella mancanza, nell'incapacità di inventarsi qualcosa di diverso. Cioè Stramaccioni si è arrabbiato quando hanno detto che l'Inter giocava in maniera provinciale e ha fatto malissimo. Avrei voluto vedere anche il Milan qualche volta giocare in maniera provinciale, perché è così che dovrebbe giocare, che potrebbe portare a casa qualche risultato in più. Certo, la classifica non rispecchia il valore della squadra di Allegri, perché quella mezza classifica non vale nemmeno questo Milan deboluccio. Io saluto e ringrazio, tanto per aggiungere altri argomenti che vi piacciono un sacco, 800 24 00 24, numero verde. Saluto e ringrazio Antonio Barilla del Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti. Io che oggi apro e vedo Berlusconi via Allegri, abbiamo sentito prima Balotelli è una mela marcia. E poi cosa leggo? Ore decisive per Drogba. Sì, assolutamente sì, nel senso che... Però interessa anche Gabbiadini alla Juventus, non mi sembra proprio la stessa cosa. No, ma non è la stessa cosa, però non è un'alternativa. Se poi si ricostruisce la strategia si capisce come non ci sia poi questa apparente stridore tra le due cose. Nel senso che la Juventus ha chiarito apertamente di non poter fare grandi investimenti in questo mercato di gennaio, per cui la ricerca di una grandissima punta del famoso top player offensivo si restringe a Drogba se dovesse accettare la proposta di un contratto di 6 mesi per 3 milioni a stagione, quindi un uomo in più nell'immediato per cercare di vincere la Champions, oppure convincere il presidente dell'Athletic Bilbao ad accettare di anticipare l'addio di Llorente, che ha già trovato l'accordo per la Juventus per giugno. Se sfuggirà una di queste due operazioni a buon prezzo, economiche, i veri affari, le occasioni, allora siccome un quinto attaccante serve comunque, la Juve rinvierà il grande investimento a giugno e arruolerà uno dei suoi giovani già controllati, quindi richiamando per 6 mesi uno tra Ciro Immobile e Manolo Gabbiadini. Ecco, sì. Non è un'alternativa, ma è una strategia che ha due piani di lavoro. Continuo a leggere, leggo anche sul Corriere dello Sport che l'Inter dice non abbiamo soldi, però prova con Dzeko. Beh, quella di Dzeko è un'operazione proiettata alla prossima stagione, cioè in questo momento l'Inter ha chiarito a sua volta, ma è un po' un problema di tutto il calciomercato italiano in questo momento, di non poter effettuare un certo tipo di operazioni onerose, quindi evita di illudere i tifosi, però lavora in prospettiva cercando di raggranellare quanto necessario per comunque pianificare un buon ciclo, e in proiezione giugno invece l'idea Dzeko ha molte basi e può decollare, anche perché muovendosi con anticipo, andando a cercare quelle che sono le situazioni di disagio, le scadenze contrattuali, più o meno come ha fatto la Juve in questa fase, si può riuscire comunque ad arruolare dei buoni giocatori senza dover ricorrere a quelle cifre folli in cui sì. non possiamo più competere con altri club che hanno le spade shake. Questo poi sì. mi chiedo io, vediamo poi quando scatterà questo fair play finanziario, perché se ne parla sempre ma non mi sembra che venga applicato. No, non sembra neanche a me. Io sono sempre stato molto scettico su queste direttive. Voglio vederlo applicato, voglio vedere qualche squadra esclusa da importante, ricca, esclusa dalle competizioni internazionali, poi ne parliamo, ma credo che di questo non parleremo mai, caro Antonio, caro Antonio Barilla. Senti una cosa invece, allora il Milan sforbicia la rosa perché Antonini e Abate pare vadano via, la mela marcia non va bene, cosa prende, cosa fa? Ma il piano di ricostruzione del Milan ripartirà dai giovani. Ripartire dai giovani significa sicuramente affrontare dei sacrifici e mettere in conto che magari bisognerà rinviare l'attesa di nuovi successi, però è vero anche che si profilano delle occasioni importanti, come è successo con il Shaarawy. Probabilmente non avremmo mai assistito alla sua esplosione senza l'addio di Ibrahimovic. L'alternativa è andare su quelli che non sono proprio dei giovani, ma hanno comunque l'anagrafe dei giovani pur avendo una grossa esperienza. Non è casuale che per esempio in questi giorni si parli di un ritorno in Italia di Santon, cioè giocatori che comunque sembrano smarriti ma possono essere ricostruiti una volta tornati sì. in Italia, o meglio nel caso di Santon già si è ripreso molto, ma può lucidare quella che era l'etichetta di una delle migliori promesse del nostro calcio, onestamente appannata perché le promesse non sono state completamente mantenute. E qualche motivo ci sarà, e Berlusconi ha detto mi piacciono destro, appunto Santon e destro, questi sono. Sì, Santon e Destro sono due profili diversi, perché io credo che mentre Santon un ritorno in Italia possa comunque intrigarlo, possa essere oggetto di lavoro, invece io su Destro temo e ritengo che giustamente la Roma se lo tenga strettissimo. Destro piace a tanti, piaceva moltissimo alla Juve, ma la Roma che ha vinto l'asta sicuramente non lascerà andare via un calciatore che è di assoluto talento e del futuro del calcio italiano anche lui. Se ti risulta, io sto leggendo una un'agenzia, se ti risulta che Snyder, lo dicono i suoi procuratori, potrebbe utilizzare l'articolo 15 del regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali per chiedere la rescissione contrattuale per giusta causa? Ma io non mi risulta, però penso che è un altro specchio della tensione che si è venuta a creare fra l'Inter e il calciatore. Mi auguro che non succeda, perché non significherebbe solo appunto portare avanti una strategia che porta a rinunciare a un calciatore comunque importante, ma anche mandare in fumo un intero capitale di un giocatore che è comunque di valore. Per cui se l'Inter ritiene di non doverlo recuperare, arruolare, da rimettere al servizio della squadra, che almeno guadagni delle cifre da reinvestire su altri campioni. Mi piace molto l'operazione Armero a Napoli, è un giocatore che a me piace, è un giocatore che ritengo molto adatto alla squadra di Mazzarri. Non so cos'altro ci sia in giro, è il caso, sta succedendo poco e ci sono un sacco di ragazzini che devono aggiornare la PlayStation, movimenti pochissimi. Nel caso di Armero concordo pienamente con te, non è solo un ottimo calciatore ma anche particolarmente funzionale a quello che è il gioco di Mazzarri, quindi un rinforzo importante per il Napoli che, rilanciato da questa vittoria, vuole giustamente coltivare delle ambizioni importanti. In generale sì, c'è poco movimento, ma penso che sia tutto sommato legato a due situazioni che si sovrappongono. Una è quella del mercato di gennaio, che chiaramente, essendo un mercato di riparazione, di rattoppi, di ricuciture e miglioramenti, non può mai accendere veramente la fantasia come quello estivo, perché è difficile che il grandissimo campione si muova se non in circostanze particolari. E la seconda cosa è quella che non ci sono società che possono permettersi di spendere e espandere, quindi la fantasia va in primo piano ma richiede chiaramente più tempo e più pazienza. Sì, ma intanto Berlusconi corregge un po' il tiro su Allegri, con lui c'è un ottimo rapporto, però dipende dai risultati, quindi non dice non dice più lo via Allegri, dice dipende dai risultati e vediamo come vanno le cose. Senti, ma come fa Berlusconi a dire tra un anno e mezzo ritorna Pato? Perché? Ma io su che basi? Non lo so, io penso che sia più che altro un gentleman agreement, non so, può essere, hai venduto il giocatore. No, magari come spesso accade si può essere creato un tipo di rapporto, se non proprio una clausola, per cui se un giorno dovesse tornare in Italia io voglio la priorità, magari c'è la convinzione interna, la speranza che questo calciatore, superati i problemi fisici, nell'ambiente di casa propria torni ad essere il Patro che conoscevamo e che qualche anno fa non fu venduto per cifre enormi proprio perché è ritenuto un patrimonio intoccabile. Per quanto riguarda Allegri, penso che sì, è una correzione del tiro, resta fermo che comunque dipende dai risultati. Se la squadra è ridimensionata, nessuno ha la bacchetta magica. Io continuo a dire che se guardiamo i numeri che poi nel calcio contano, Massimiliano Allegri ha vinto uno scudetto, ha ottenuto un secondo posto, è qualificato in Champions anche quest'anno. È vero che è molto in ritardo, però è anche vero che obiettivamente i ridimensionamenti quest'anno sono stati nettissimi al Milan. Certo. Poi sicuramente la classifica forse è comunque avara, qualcosa in più era lecito attendersi, ma credo che si è trovato a gestire una squadra che lontana parente di quella che aveva lo scorso anno, cioè passare da Ibrahimovic e Thiago Silva, degli ottimi giocatori, ma sicuramente non di quella caratura, è durissima. E pensate come sarebbe andata se Al Shaarawy non fosse esploso, ma poi perdere in un colpo la spina dorsale della vecchia guardia. Che assolutamente, anche senza, perché senza noi parliamo sostituirla. Sempre dei campioni, ma chi ha scritto la storia del Milan e va via tutti insieme, sicuramente si perde molto anche a livello di carisma, di peso specifico, di esperienza, di controllo dello spogliatoio, di mille cose. Grazie Antonio. Grazie a voi tutti, buona giornata. C'è qualcuno che pare non abbia sentito bene il fuori onda di Sky, di Antonio Balzarotti, sindaco leghista di Corbetta. Accontentiamo chi non ha sentito bene quel fuori onda. No, voglio dire che dice, se uno fa bu a un neger è reato, ma come fai a dire che io lo faccio un neger? Allora andiamo in giro per strada e ogni volta che vediamo un neger gli facciamo bu. Magari prendiamo qualche giusta pizza in faccia, cosa dite? Massimo Pescara. Buongiorno. Ascolti, un piccolo incoraggiamento per noi del Pescara, che eravamo spacciati, però insomma avete fatto il colpo della domenica vincendo a Firenze. Ma io direi ogni vittoria è un colpo. Sì, il Pescara onestamente lo vedevo maluccio anch'io, confesso Massimo, il campionato che ma sta facendo. L'anno scorso che eravamo abituati a vedere quel tipo di calcio. Ma dimentichi quella roba, cioè dimentichi l'anno scorso, dimentichi quel tipo di calcio, dimentichi anche i giocatori che il Pescara aveva l'anno scorso perché non ce li ha più. Sinceramente lo vedevo come la squadra più debole della Serie A, evidentemente ci sbagliavamo un po' tutti, magari anche lei. No, noi ci batte il cuore per il Pescara, per cui va bene così. Per cui certo. Va bene così. Beh, il cambio di allenatore, a parte il fatto il discorso di delle dimissioni di Stroppa, merce più unica che rara, poi Bergodi sta facendo molto bene, e il Pescara onestamente non mi aspettavo alla fine del giorno d'andata di vederlo lì dov'è, me lo aspettavo molto più giù. Paolo Varese, buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno. Io volevo intervenire in merito alla questione del pallone d'oro, sì, dicendole che sono d'accordo con lei, perché secondo me un premio che non annovera tra i suoi vincitori gente del calibro di Baresi, Maldini, Zanetti, per fare solo alcuni nomi, e che preferisce in un anno dare il premio a Sammer rispetto a Del Piero, che ha fatto una stagione favolosa quell'anno segnando anche il gol decisivo della Coppa Intercontinentale, si commenta da solo. Sì, Paolo, al di là di quello, poi ripeto, ognuno di noi ha le sue bandiere nell'armadio, ha le sue simpatie, antipatie, eccetera, eccetera. Secondo me, al di là del nome, non bisognerebbe derogare all'assioma secondo cui, ripeto, il pallone d'oro andrebbe assegnato ad un giocatore, pur essendo un premio individuale, non al più forte in assoluto, se no è troppo forte, che premio diventa? Cioè diventa appunto una pagliacciata, una buffonata. Va assegnato ad un giocatore che ha contribuito in maniera determinante al successo della sua squadra in qualcosa di importante. Mi risulta che ci sia la Spagna appunto che ha vinto un europeo, un mondiale, prima un altro europeo e di palloni d'oro non ne abbia portati a casa. Questo mi sembra ciò che rende appunto il pallone d'oro una pagliacciata. Domenico Salerno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto auguri a tutti per il nuovo anno. Auguri. Grazie. Volevo dire, mi ha anticipato l'ascoltatore di prima, in realtà il discorso appunto, volevo dire appunto di Maldini, di Baresi per il pallone d'oro, che chiaramente non vengono, non sono stati assegnati al suo tempo quando hanno fatto delle prestazioni eccezionali, semmai appunto la squadra non ha che abbia vinto tanto. Ma mi riferisco in modo preciso, a prescindere sono tifoso dell'Inter, ma se vogliamo mettere in discussione una cosa che ho fatto per anni, da quando abbiamo vinto la famosa triplete, se Milito, quello che ha fatto quell'anno, non è un giocatore che poteva vincere il pallone d'oro, allora io veramente dico è inutile fare appunto questa pagliacciata. Ovvio su tutto che Messi è un grandissimo, attualmente forse, anzi non forse, non c'è nessuno al suo paragone, però come lui stesso ha dichiarato ieri dopo la vincita del pallone d'oro, ha detto anche se io quest'anno insieme al Barcellona non abbiamo vinto granché se non la Coppa di Spagna, io comunque sono stato premiato con questo titolo. Quindi ripeto e sottolineo, ma Milito come faceva a non vincerlo quell'anno di due anni fa? Sì, a prescindere sì, la considerazione, no, ma no, a prescindere la considerazione ci sta, la considerazione ci sta, torno a ripetere, Milito in quella stagione fece il fenomeno, meritava ampiamente il pallone d'oro che poi è finito da un'altra parte, cioè sempre a casa di Messi. Sì. Gaetano, provincia di Roma. Sì, buonasera, intanto volevo farle i complimenti per la trasmissione, tanto che la seguo e grazie. Ci tenevo. Grazie. Una sola considerazione, io sono tifoso della Juve, volevo dire che per me la Juve di quest'anno e dell'anno scorso è la Juve che seguo da 20 anni, è la mia Juve, insomma. Quella che mi dà soddisfazioni. E poi niente, volevo sapere da lei, volevo cambiare un po' argomento, sapere cosa ne pensa sulla situazione che è successa quest'estate a Schwarzer e una considerazione su Del Piero a sì. Sydney. Del Piero a Sydney, ripeto, ha fatto benissimo ad andarci, ci sarei andato anch'io, mi sembra una città meravigliosa per vivere, ha deciso di chiudere con il grande calcio e di fare un'esperienza di vita, quindi qualcosa che una decisione che mi aspettavo da un giocatore, da un uomo come Del Piero. Schwarzer, ne abbiamo parlato... Abbiamo parlato a tempo debito, ne abbiamo parlato anche troppo. Io continuo a pensare che lui si sia preso tutte le sue responsabilità, però come nel caso di Armstrong ci siano persone che sono rimaste nell'ombra, che sono state in qualche modo protette da Schwarzer e da Armstrong eccetera eccetera, e che non verranno mai fuori, non verranno mai punite, non conosceremo mai le loro colpe, perché io non posso credere che nessuno sapesse che questo va in Turchia con 1500 euro in tasca e compra l'Epo e nessuno sa nulla. A questo io non crederò mai. Dunque, si dimette, notizia di ora, l'assessore leghista indagato del comune di Corbetta non lascia però da consigliere. Allora, si è dimesso dalla carica di assessore allo sport del comune di Corbetta Riccardo Grittini, il leghista indagato per istigazione all'odio razziale eccetera eccetera, per quei bu che per fare bu a un neger non è mica reato, come diceva il sindaco. Ebbene, si è dimesso da assessore ma non da consigliere comunale, quindi resta in consiglio. Questioni politiche che ci riguardano poco, se non i brividi quando sentiamo quello stralcio di telefonata. Perché? Perché è veramente inciviltà, mi pare, non credo possa essere in discussione questo tipo di inciviltà. Gianni da Bologna. Buongiorno Sergenta, complimenti. Buongiorno. Per la trasmissione, sono suo fan. Grazie, però mi abbassi la radio perché sennò non la sento. Sì, mi sente? Sì. Senta, io le volevo chiedere, essendo un tifoso juventino, ma è possibile che una squadra come la Juventus, non riesca a rigenerare un Matri o un Quagliarella e si punti solo a questi top player? Mm. Cioè, la domanda è questa. Cioè, una Juventus che non riesce a fare gol, crea tantissimo gioco... Cioè... Ma quelle sono... Allora, da una parte parliamo di Matri e Quagliarella, dall'altra parte parliamo di Drogba, quindi mi sembrano discorsi un po' diversi, con tutto il rispetto per quegli eccellenti giocatori che sono Matri e Quagliarella. A me sembra che, insomma, Matri sia stato un po' accantonato nelle scelte di Conte dall'inizio della stagione. Credo che Quagliarella sia un giocatore molto funzionale invece al gioco della Juventus e che sia stato sottoutilizzato fin qui. Quando è stato impiegato ha dimostrato di essere un giocatore molto funzionale appunto al gioco della Juventus, perché è capace comunque di inventarsi qualcosa insieme a Vucinic. Mi sembrano gli unici due attaccanti veri, e tolgo Giovinco, che abbiano il colpo del KO quando la situazione diventa ingarbugliata. Torniamo a parlare di tutto quello che volete, naturalmente, riguardo allo sport, domani dalle 2 alle 3 con tutti i convocati. Ringrazio Franco Piantanida, autore di questo programma, ringrazio Fabio Cantadori in regia e vi saluto. Ciao a tutti. I sogni son desideri. Secondo Cenerentola, i sogni son desideri.